Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Questa è la mia terra, non è la terra degli imbranditi. Presi le piazze con lo slancio di un sogno e la forza di una provocazione, ammazzateci tutti, ed ogni loro corteo, ogni loro urlo o striscione sventolato nelle strade delle città è una nuova fessura nella gabbia che imprigiona questa terra, è un gong che sveglia dal silenzio e la denuncia di un altoparlante che spezza quel gioco di obbedienza e rassegnazione. Per questo, proprio nel giorno di Natale, io vorrei farvi gli auguri raccontando una storia di speranza, di entusiasmo e di gioventù, una storia di impegno, una storia che viene da una terra tinta invece troppo spesso dai colori cupi della cronaca nera. Io ogni anno chiedo a Babbo Natale di portare sotto l'albero un po' di buonsenso ai miei corregionali. Devo dire la verità che pian piano Babbo Natale ci sta accontentando, nel senso che ora la Calabria è molto più consapevole di un problema. E il sogno ovviamente è quello di non aspettare la generazione magari dei miei nipoti per poter vedere qualcosa di concreto, cioè il lavoro e la sicurezza di una protezione anche. Il sogno di Aldo Pecora, voce principale e inventore del movimento Ammazzateci Tutti, è il sogno di una Calabria dove le regole dell''ndrangheta non siano più subite e accettate, ma ad ogni sopruso segua una denuncia, ad ogni imposizione segua una rivolta. È il sogno di una terra dove le voci dei giovani prendano il posto del silenzio, complice degli altri, così come è avvenuto quando 5 anni fa è nato il movimento, dopo l'omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Fortugno. Sogna una terra, Aldo, e come lui tutti gli altri di Ammazzateci Tutti, dove Natale non sia più l'incubo di commercianti e imprenditori a cui i boss dicono di mettersi a posto e pagare, dove ciascuno si indigni e reagisca per tutto ciò che non va, perché chi non si indigna, è una delle massime di Aldo Pecora, non vale niente. Nella radice stessa, nel nome stesso, indignazione, che sta anche una parola che è molto importante, che è di dignità. Ecco, la parola dignità deve essere un qualcosa che non è soltanto una voce del vocabolario, ma deve essere un qualcosa che fa parte di ognuno di noi. Bisogna saperla tirare fuori, bisogna saperla soprattutto rispettare, sia quella degli altri, sia far rispettare la nostra. Questo è uno dei problemi, insomma, secondo me atavici, un po' di tutto il sud, abituato a un essere comunque assistito dall'alto, essere comunque portato per mano, risollevato, la dignità di un commerciante che è costretto a pagare la mazzetta al mafioso di turno. Da noi non esiste il pizzo, ma è questo fenomeno, diciamo che una tantum, un pagamento spesso anche in natura, che avviene per marcare il territorio, lo fa il mafioso che magari viene da te, che vendi elettrodomestici, prende un frigorifero e dice poi passo, e ovviamente quella è la mazzetta che tu hai pagato al mafioso, non vedrai mai i soldi di quel frigorifero, ma serve una tantum, una volta all'anno, una volta ogni 3 anni, perché il mafioso dica guarda che io sono qui, il controllo del territorio lo faccio in questo modo, è come il cagnolino che fa la pipì sull'albero, e quella è un'offesa della dignità. Facci proprio degli esempi. Questa è la mazzetta, insomma. Poi ci sono altri tipi di pizzo, sempre magari ti obbligano a dover, se sei un imprenditore, un grande imprenditore, a dover effettuare il movimento terra con quelle determinate aziende, a dover acquistare i materiali da quelle determinate aziende, insomma i cartelli li detta l''ndrangheta, non esistono gare d'appalto, non esiste libera concorrenza e libero mercato. Nella vita di tutti i giorni basta vedere anche quella mafiosità di comportamenti che poi è un po' dentro ognuno di noi, no? Un attacco in ospedale dovrebbe essere un diritto, ma spesso e volentieri molta gente pensa che sia un favore che ti viene fatto se riesci a farne in tempi brevi, e questo non è ammissibile, questa è un'offesa appunto alla dignità. Quando vedi che quando c'è un concorso pubblico o una qualsiasi altra cosa che riguarda appunto la della pubblica amministrazione, e ti rendi conto, leggendo anche le parole che erano dell'ex prefetto di Reggio Calabria, Luigi De Sena, che diceva che non solo una cosa drammatica, che in Calabria la gente sta anche perdendo forse la voglia di continuare a sperare, questa è una cosa drammatica, ma la cosa ancora più grave è che non ha suscitato una reazione appunto di indignazione quando De Sena dice che in Calabria non è la pubblica amministrazione che è collusa dall''ndrangheta, in Calabria l''ndrangheta è, verbo, la pubblica amministrazione. parole pesanti. Molto pesanti. Aldo, comincia un po' a rompersi questa crosta di silenzio e di obbedienza. Anche non molti giorni fa, ancora degli imprenditori di fronte ad una richiesta di pizzo, di mazzetta, mossa in vario modo, estrinsecata in vario modo, di quella che viene chiamata in Sicilia come anche in Calabria, messa a posto, con questa espressione che vuole essere essa stessa un inganno rispetto a ciò che significa. Ecco, però, appunto, gli imprenditori cominciano a non accettare più l'imposizione di questa legge e a ribellarsi. Il procuratore Pignatone in un'intervista a Storiacce ci disse: quando 2 anni fa un commerciante ci additò i suoi estorsori e io lo raccontai al prefetto, il prefetto non ci credeva, pensò ad uno scherzo. Per te, che ora sei diventato insieme al vostro movimento un punto di riferimento anche per le persone, ecco, come è andato questo percorso? Ci puoi raccontare la differenza rispetto al momento della vostra nascita fino ad adesso, in cui forse comincia ad essere un po' più frequente il numero di persone che a voi si rivolgono anche come un, per avere un sostegno verso un percorso giudiziario? Io volevo partire appunto dall'ultimo dato recente molto importante: si formano delle reazioni a Gioia Tauro, nella roccaforte dei Piromalli, dove i testimoni di giustizia non sono mai esistiti, tranne l'imprenditore di Palmi, Gaetano Saffioti, l'imprenditore edile, ma non c'era nulla fino ad ora. Ora un grande commerciante della zona decide di denunciare i Piromalli e di farli arrestare, di portare dati appunto contingentati, veri, circoscritti, verificabili. Ed è una cosa molto importante. Anche quello che è successo a Locri con il Rispoli. Rispoli, che aveva una sua attività, ha denunciato le cosche lendrine di Locri e ha contribuito a fare delle operazioni di polizia molto importanti nell'ambito dell'operazione Shark, e oggi anche il segnale che lo Stato sta accanto a questo testimone di giustizia, dandogli un'opportunità lavorativa nuova, perché Rispoli, caso unico forse, è stato adesso assunto dal comune di Locri. Sì, era stato assunto come collaboratore del comune ed è stato un segnale che il comune ha voluto dare, così come appunto io facevo riferimento proprio appunto alle denunce di due fratelli, di due imprenditori di Gioia Tauro, che hanno appunto indicato e riconosciuto fotograficamente, non soltanto genericamente denunciato, appunto un nome pesante in quella zona come Mommo Piromalli. Esatto, un cognome che è il simbolo un po' dei proprietari di quella zona stessa. Tu stesso ci hai detto: a volte vengono da noi per chiederci anche un po' qualche consiglio, cioè l'idea di avere un appoggio in un percorso giudiziario, sì, è anche questo? È un po' l'ultima spiaggia alla fine. Noi spesso e volentieri riceviamo tantissime segnalazioni, sia via mail in forma anonima, sia con telefonate anche in forma anonima e anche in forma certificata con nome e cognome. Il nostro lavoro è semplice, di tramite. Noi siamo un link tra il cittadino e lo Stato e selezioniamo noi stessi quelli che sono i casi che riteniamo più gravi, quelli più urgenti anche in alcuni casi, e li giriamo a chi di competenza. Poi racconteremo alcune delle vostre manifestazioni e di come progressivamente anche sia aumentato e sia anche cresciuto anche qualitativamente il numero di persone che vi segue. Ma adesso voi e tu soprattutto sei direttamente impegnato in una sfida che hai trasformato anche in un libro. Il libro è Primo Sangue e ripercorre il delitto Scopelliti. La tua sfida, il tuo obiettivo, si può dire che è quello di vedere riaperto il processo per l'omicidio Scopelliti? Questo è un dato significativo, perché l'anno prossimo saranno trascorsi 20 anni dall'uccisione di questo magistrato calabrese e purtroppo il crimine, il delitto è rimasto ancora impunito. Il libro nasce dall'esigenza di verità, innanzitutto una verità di memoria, una memoria storica che manca sulla figura del giudice, sul suo sacrificio, perché il primo sangue appunto che ha portato poi al disegno stragista di Totò Riina e della cupola palermitana. Non ci dimentichiamo che Scopelliti era il magistrato che in Cassazione, alla Suprema Corte di Cassazione, alla prima sezione penale, spesso e volentieri ha vestito i panni della pubblica accusa in processi importantissimi contro il terrorismo e contro la mafia, e che spesso e volentieri ha chiesto le conferme degli ergastoli già inferti in primo grado e in secondo grado. Era una persona nota per questa sua, diciamo, questo suo garantismo, anche perché in alcuni casi addirittura ha chiesto l'annullamento delle assoluzioni e in alcuni casi invece ha chiesto l'annullamento degli ergastoli, quindi tutto si potesse dire tranne che fosse etichettabile come giustizialista, come garantista. Faceva il suo lavoro, si è trovato in mano il maxi processo contro Cosa Nostra nel giugno del 91, e si era fatto mandare le carte in Calabria per studiarle e non gli diedero il tempo perché il 9 agosto del 91 lo ammazzarono. È una storia particolarissima perché per la prima volta nella storia delle mafie si verifica quello che dicono i pentiti, un patto, diciamo, inedito, un patto segreto tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, nel senso che il giudice Scopelliti, scomodo in quel momento a Cosa Nostra, perché già a marzo del 91 aveva chiesto la conferma degli ergastoli nel processo del rapido 904, dove era implicato Calò, detto la salamandra, il cassiere di Cosa Nostra, doveva essere eliminato. Non potevano farlo a Roma perché aveva la scorta, in Calabria non potevano neanche perché la Calabria era garantita da un'autorità che non era l'autorità di Cosa Nostra ma l'autorità dell'Ndrangheta. Quindi Cosa Nostra chiede un favore all'Ndrangheta, l'Ndrangheta esegue, in cambio Cosa Nostra, Totò Riina in persona, si disse addirittura, mette la pace nella seconda guerra di 'Ndrangheta di Reggio Calabria, una guerra che aveva formato due eserciti contrapposti tra di loro, da un lato i De Stefano con i Tegano e dall'altro gli Imerzi con i Condello, un esercito che aveva fatto guerra e che aveva portato addirittura i boss a saltare in aria nelle strade di Reggio Calabria. La guerra finisce perché Riina mette la pace, scoppia la pace. E purtroppo a farne le spese è stato il giudice Scopelliti. Il suo delitto è rimasto appunto. Esatto, tuttora... si dirà, ma allora perché? Perché se tutte queste cose sono verificate non si è avuta giustizia? Molto semplice, perché è stata portata a processo soltanto la mafia siciliana, dopo una lunga vicenda processuale sono stati tutti assolti, non è mai stata processata la 'Ndrangheta, ma c'è anche da dire che ai tempi non erano stati assicurati alla giustizia i più importanti boss della 'Ndrangheta di Reggio Calabria, persone che rispondono al nome di Giovanni Tegano, quello degli applausi di fronte alla questura di aprile, certo, del 2010, Pasquale Condello, detto il supremo, il provenzano calabrese, arrestato nel 2008, e Giorgio De Stefano, l'avvocato Giorgio De Stefano, detto lo stratega, che è stato arrestato nel 96. Ora, ecco persone... Aldo, secondo te e secondo i due magistrati, Salvatore Boemi e Nicola Gratteri, che tu hai intervistato, sì, nel tuo libro, ecco, ci sono gli elementi perché appunto questo processo possa essere riaperto? Il libro nasce per questo. Il libro nasce per mettere ordine, per ricostruire tutto in maniera unitaria. Gratteri mi dice una cosa pesantissima, per esempio. Gratteri mi dice che lui ad esempio era un giovane magistrato e che ricorda però che gli operatori di polizia giudiziaria lamentavano, diciamo, delle difficoltà nell'esperimento delle indagini sul luogo del delitto. Questo è un aspetto inedito, che purtroppo anche i media nazionali, devo dire la verità, la prima volta ne stiamo parlando a Radio 24, approfitto dei tuoi microfoni per farlo. Questa è una cosa molto importante che mi dice Gratteri. E poi Boemi, che ricostruisce tutti gli anni della guerra di mafia, gli anni del maxi processo Olimpia, dove erano implicati non solo i mafiosi, ma anche i colletti bianchi per la prima volta in Calabria. La verità è come una rocca situata su un monte e l'uomo non ha ali per raggiungerla. Non può che aprirsi la strada a fatica su per la parete, ma ciò che lo guida e lo sorregge è la bellezza della meta. Questo scriveva Antonio Scopelliti, il giudice Scopelliti, che la mafia e la 'Ndrangheta vollero uccidere ormai quasi 20 anni fa. E queste parole accompagnano il percorso faticoso e insidioso dei giovani, sempre più numerosi, che aderiscono ad Ammazzateci Tutti, il movimento nato come risposta ad un altro delitto, quello Fortunio. E accanto a questi giovani cammina anche Rosana Scopelliti, la figlia del giudice, grazie anche ad un incontro fortunato con Aldo Pecora, l'inventore dello slogan che ora col suo libro sul delitto Scopelliti punta ad una riapertura delle inchieste. Questa è una cosa che è davvero ai limiti dell'immaginazione, dell'incredibile. Io ho conosciuto Rosanna nel dicembre del 2005 a Roma, dove lei si trovava di passaggio a Villa Paganini e io invece ero lì per commemorare il giudice Caponnetto. E dopo questo evento noi ci siamo conosciuti, io sono riuscito a convincere Rosanna a entrare, a lavorare anche attivamente con noi, a organizzare le sue prime uscite pubbliche, dove lei si presentava come Rosanna Scopelliti, perché era una cosa completamente inedita, nessuno sapeva della sua esistenza, perché anche il papà aveva fatto di tutto per tenerla segreta. Rosanna, una bambina che viaggiava in una valigia rossa perché il padre temeva per lei, aveva paura perché di nemici ne aveva tanti. Quindi Rosanna irrompe anche nella scena pubblica nel 2005 con Ammazzateci Tutti, poi con una serie di percorsi comunque anche abbastanza difficoltosi siamo riusciti a fondare una fondazione intitolata al giudice Scopelliti che Rosanna stessa presiede. Quindi oggi esiste un'altra realtà oltre Ammazzateci Tutti, che è la fondazione, che anche simbolicamente alla sua sede nella casa di Via della Scrofa del giudice, che era rimasta per tantissimo tempo una casa che sicuramente sarebbe rimasta non usufruibile dalla gente, ma neanche dalla stessa famiglia, perché la vedevano appunto come un luogo di morte, invece oggi è un luogo di vita. Ecco Aldo, allargando un po' il tono della nostra chiacchierata, mi farebbe piacere avere una tua riflessione anche su un altro spunto. In questi giorni si sta parlando tanto dei temi e dei problemi della vostra generazione, perché poi tu sei giovanissimo, di questa generazione così definita precaria, se ne parla soprattutto a proposito delle proteste del l'università, ma questo è un tema, questo della difficoltà del mondo del lavoro, che soprattutto in una terra già di per sé difficile come la Calabria ha un doppio peso. Tu come vivi, come stai seguendo questo dibattito e anche le proteste degli universitari, che poi sono scocciati anche in forme dure, in forme violente, chiaramente da criticare, ma come vivi tutto questo dibattito intorno a questa generazione che è stata definita senza futuro? Ma è di fatto la generazione che unica certezza ha di vivere sicuramente peggio di quella dei genitori. E questo è un problema davvero importante. E poi io vivo ovviamente la cosa anche da persona coinvolta direttamente nei fatti. La mia è la generazione, e io ne sono anche una delle prove, di chi ti dice: se vuoi lavorare apri una partita IVA. E nel lavoro che io faccio, che fanno anche tanti altri miei colleghi, sicuramente noi che guadagniamo 4 soldi siamo quelli che mai potremo evadere il fisco, e purtroppo siamo strozzati da questo punto di vista. Ci sono pochissime chance, ci vuole tanta buona volontà da una parte, ma le chance sono davvero poche, soprattutto in una terra come la Calabria. Appunto, come la Calabria. Tutto questo che cosa vuol dire? No, vuol dire che se anche tu hai della creatività, nel momento in cui ti metti in campo, ti metti in gioco, devi fare i conti con dei fattori che sono oggettivi alla situazione calabrese. Non è tanto facile alzare una saracinesca in Calabria, metterci un'insegna e cominciare a fare qualcosa, un ristorante, un pub, quello che sia. Purtroppo ci sono delle situazioni di fatto dove tu ti trovi a dover dare conto a un'autorità che, lo ripeto, non è un'autorità statale, ma è un'autorità estranea allo Stato, e che spesso e volentieri quella ti dice: ti devi mettere a posto, devi fare questo, devi fare quest'altro. Altrimenti la soluzione qual è? La soluzione è molto semplice: qualche giorno ti ritroverai il tuo locale fatto saltare per aria, la tua macchina fatta saltare per aria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la sicurezza in una terra difficile come la Calabria, esatto, e anche le chance di lavoro sono anche una via d'uscita necessaria, fondamentale per evitare di finire nel gorgo della malavita. Ecco Aldo. Ma anche, scusa se mi permetto, un po' di autocritica dobbiamo farla. La Calabria è una delle regioni cosiddette obiettivo 1 dell'Unione Europea, sono arrivati miliardi di euro in Calabria. Spesso e volentieri sono stati i miei corregionali che ci hanno fatto soltanto delle truffe, cioè prendevano dei soldi alla comunità europea per poi non farci nulla, toglierle comunque allo sviluppo, toglierle allo sviluppo di un territorio, e quindi fare una mossa che è un po' come un arachiri collettivo che è stato fatto. È ovvio che ci siamo messi in cattiva luce noi stessi, è ovvio che anche tanti giovani, alcuni più grandi di me anche sicuramente, ma hanno fatto in modo, prestando la loro firma in alcuni casi, perché si facevano anche da prestanome, hanno fatto in modo che oggi la Calabria potesse diventare una regione vista anche in maniera negativa a livello europeo, e in un'ottica federalista questo per noi sarà un danno del quale sconteremo, diciamo, si produrranno gli effetti per i prossimi 15 anni, quindi anche sulla mia generazione e forse anche quella che verrà dopo. Possiamo dire che forse un altro desiderio per la tua Calabria potrebbe essere quello di voler più bene anche alla propria terra, di poter essere, di averne maggiore consapevolezza e anche di avere maggiore lungimiranza, perché troppo a lungo in Calabria, come in molte altre terre del nostro mezzogiorno d'Italia, quello che sembrava un affare immediato, come in Campania interrare anche i rifiuti tossici, esatto, ha allontanato possibilità di guadagno ben maggiore. Come passi il tuo Natale? Il mio Natale è in famiglia. Sfrutterò anche le giornate tra Natale e l'Epifania per fare qualche presentazione del libro in Calabria. La Calabria è non solo la parte cattiva di questa terra, ma soprattutto la parte buona, è una parte che è molto attaccata alle sue tradizioni. E se sappiamo quali sono le tradizioni così granitiche, sopravvissute decenni se non secoli dell''ndrangheta, ecco, però nel giorno di Natale ti fa piacere doppiamente sapere anche quali sono le tradizioni invece positive di questa terra. Ecco, quali sono le tradizioni calabresi del Natale? La tradizione positiva innanzitutto è che spesso e volentieri tante famiglie che sono rimaste lontane per decenni si ricongiungono. Il concetto di famiglia non ce l'ha solo la mafia, ce l'ha anche l'antimafia. La cosa bella è questa, vedere una cosa, anzi più che altro sentire, succede solo in pochissimi paesini, non succede nelle grandi città, quando tu sotto Natale magari al mattino presto o la sera passi per un vicolo e senti l'odore del camino, il comignolo che esce il fumo, e senti quell'odore tipico che puoi sentire solo lì. Sono tante piccole cose, la messa la sera di Natale, rivedere i vecchi compagni di scuola, poi per chi come me purtroppo vive spesso lontano dalla Calabria, sono anche delle piccole cose che magari non apprezzavi, ma che poi piano piano col tempo impari a sentire come essenziali. Contro l'arachiri collettivo, per dirla con le parole di Pecora, l'antidoto di questi ragazzi è prima di tutto la conoscenza e la consapevolezza di quel problema 'ndrangheta di cui troppo a lungo in Calabria nemmeno si osava pronunciare il nome. Un 'ndrangheta che quest'anno ha lasciato bombe e bazooka per i magistrati, ma che comincia ad essere intaccata non solo nel suo esercito, ma anche in quel livello di collusione istituzionale e copertura politica. Così, a distanza di 48 ore, sono stati arrestati prima il carabiniere che spifferava le notizie delle inchieste ai boss, poi i politici che con quei boss avevano stipulato patti per avere voti. Un 'ndrangheta venuta allo scoperto anche con tutte le sue radici nel nord Italia, e allora è anche qui che i ragazzi di Ammassateci Tutti con Massimo Brugnone portano il loro sforzo di sensibilizzazione e fanno un altro passo in avanti per realizzare quel desiderio di Natale ripetuto ogni anno da Aldo Pecora. Nel nostro statuto noi abbiamo scritto: siamo obbligati, qualora ci siano processi di mafia, a partecipare e a costituirci parte civile. Questa è la parte, diciamo, più tecnica. Poi una cosa molto carina che sta succedendo soprattutto in Lombardia, dove adesso per la prima volta si processano gli 'ndranghetisti, abbiamo Massimo e i nostri ragazzi che vanno nelle aule di tribunale con gli studenti, ma non vanno a vedere la bestia dietro le sbarre, vanno a capire come funziona un'inchiesta di mafia in una regione che apparentemente dovrebbe essere immune dal problema e che invece dalle carte processuali investigative risulta essere adesso la capitale dell''ndrangheta. Andare in un'aula di tribunale fisicamente fa capire anche ai mafiosi stessi, ai presunti mafiosi, per carità, perché ancora fino alla condanna definitiva sono tutti innocenti, ma fa capire anche a loro che c'è una forte pressione dell'opinione pubblica perché lo Stato faccia valere la propria sovranità, a chi invece quella sovranità se l'era presa in maniera illegittima e in maniera anche infame. Storiacce si ferma qui, vi ricorda come sempre il sito radio24.it da cui potete accedere anche a Storiacce Blog, il nostro audioblog. E io mi fermo qui augurando a tutti voi un Natale di speranza, di gioia e di fiducia. Ciao, auguri a tutti, a sabato!